Tento che è aperto dietro. Aspetta, porti via. Va? Stiamo insieme, attento. Adesso vieni che vedi il bello. Oh. Se cerco di entrare in galleria vedi il bello. Perché domani diranno la manifestazione, quando dormono 5 figli, 25 figli. Cosa c'era di, comunismo a favore del Vietnam? Nulla. Sono un paio di ragazzi, deficienti, se volete, ragazzi magari un po' presi, che hanno dato per il Vietnam in figura, per l'Angola. E allora abbiamo ragione anche noi di riprenderci questo momento. Ma il Corriere, se non ci fosse bello, ma lasciamo perdere il Corriere forse non l'ha detto, il Corriere che non l'ha detto, ma lasciamo. No, ma noi guardiamo adesso il sito della casa, ma domani c'è discussione. Guardi, è solo questione di interesse, ma se non ci fosse bello, di cosa vuole un operaio, non possiamo giustificarlo finché volete, però possiamo giustificare il sbrido perché il peso del reclamamento, come possiamo giustificare per quelli di Candy la parolaccia di questo punto. Guardi, io ho visto due. Solamente per il fatto che è comunista. Ha fatto osservazione perché c'era una banda che suonava bandiera rossa, va bene? C'era una donna davanti che l'ha detto delle tutte parolacce, ha capito? Nel corteo, dopo la banda è cessata, ha cessato, stia a sentire la responsabilità di chi era lì, di chi era la responsabilità, non era di chi ha organizzato la manifestazione, dico in quel caso lì la responsabilità sa di chi era, di chi suonava. Giusto, ma anche l'Unione Sovietica. Tutti e due. Ma vedi, noi i carri armati in Ungheria non ce l'ha mica mandato in Unione Sovietica. Cipriani, dai, andiamo. Madonna, che proteggono. Vogliono l'unità, vogliono. Andiamo. Del blocco economico europeo e che l'unica nazione che riforniva la Germania di Hitler chi era? La Russia, la Russia di Stalin. Due anni comunicata. Aspetta un attimo, andiamoli da quelli del PSD. No, è interessante, no? Ti rendi conto, sentire una discussione politica per la strada, non si sa mai, non si sente. Ci mancherebbe altro. Chi è che te l'ha? Uno con gli occhiali. Questo va. Quello è una cretina del mio partito, poi dopo comincia a girare e dire io vicino a una donna, no? Che io facevo il filo a una donna, che quella era ma che ero talmente attaccato a quella che l'ha scambiata per mia moglie. No? Aspetta un momentino, il problema è questo, che poi lo viene a sapere mia moglie, il paiolo è tutto mio. Voi avete scherzato. Dì la verità, che tu hai una mano certo magari che, certo, che, certo che il mio non può essere. Dai, andiamo con lei. Siamo di San Giorgio di Piano, a Bologna. Ah, San Giorgio di Piano. Sono passato. E suonate sempre in queste cose? No, noi abbiamo preso la chitarra così, sappiamo suonare un po'. Sì, so quando c'è da fare qualche manifestazione, in piazza così. So come l'anno scorso a Reggio Emilia, alla festa dell'unità, andiamo là, facciamo un po' ecco, di scompiglio per modo di dire. Sì, non è che siamo dei grandi, che ci divertiamo e basta. Come vi chiamate? Io Nemesio. E io Mario. Diteci il nome e cognome. Io Paletti Nemesio. Mario Sarto. Mario Sarto. Quanti anni avete? Io ce n'ho 20. Io ne ho 17. E tanto per cantare? Che hai cantato? Io ho 5-6 mesi, lui ha circa un anno. Quello che volete, tanto per... Questo qua è la canzone, popolare, sì, del dialetto romano. Noi, no, è di canzoni popolari proprio della vostra. C'è l'Andricca? L'Andricca, la senti là. Io lo so tutto, solamente che la suoni te. No, la canto. Rosa, l'ultima la spagnola, la bala al tango, la perruna. Conosciuta la sui montagnola, la spinzeva la giostra il sangue. Colores de pura carmesita. Bene. Non è ancora meglio sulle piante. Eh? Bene, solamente che eravamo qua col sole nuovo. Sì, va bene. Andiamo pure. Come se si trattasse di oltraggio alla religione. No. Va bene. C'ho il naso. Non... Volete... Volete ricominciarla? Volete sentire addio Lugano Bella da una? No, no, prima ci fate questa. No, questa è abbastanza importante. Sì. Ok, via. Bruceremo le chiese, via. Via, 1, 2, 3. Bruceremo le chiese, gli altari, bruceremo i palazzi reali, con le budella dell'ultimo papa. Facciamo all'amore, che è la cosa più bella del mondo, chi non chiama nel tempo giocondo, quando è vecchio la prende nel colpo. Addio Lugano. Addio Lugano. Prima l'alba se ne parte l'operaio. No, scusate, prima di tutto vorrei avere una definizione esatta di chi siete. Cioè siete una sezione del SIUP di Verona? No. Sì, siamo un gruppo. O siete un gruppo così di, un di varie... del SIUP di Verona. Tutti del SIUP. Quasi, ma no, è nemmeno uno. Qualche mosca bianca. Più o meno iscritti. La grande. Io ce l'ho la pipa. Beh, cantiamo il coso. L'alba se ne parte l'opera. Sì, sì. E dopo com'è? All'alba se ne parte l'operaio. E vecchietti e Mao Zedong, marceremo uniti e ben stretti con Basso e vecchietti e Mao Zedong. Basta. Allora, io non, canzone non si sentono belle parole. Dunque, all'alba se ne parte l'operaio, la grosta de polenta e de formaggio. E poi? Poi come? Mavalà. Finirà la camorra dei democristiani. Mavalà, mavalà, porocan. Finirà la camorra dei democristiani. Marceremo uniti. Però se, c'è, un'altra lezione se ti interessa. C'è quel gruppo là. Marceremo uniti e compatti con Nenni e Togliatti. Ma è vecchio, ormai mi dice Basso e Togliatti. Quella era quella vecchia, no? Non hanno posti. posti ci sono, è solo di sapere quanti sono per fargli. Dai, ritornino cannolo, buona il cannone, rivoluzione, rivoluzione, avanti o popolo, buona il cannone, rivoluzione, vogliamo far, rivoluzione, noi vogliamo far, rivoluzione, noi vogliamo far. Rivoluzione noi vogliamo fare, evviva il socialismo e la libertà, evviva il socialismo e la libertà. Preti e signori andate a lavorare, preti e signori devo lavorare, preti e signori devo lavorare, evviva il socialismo e la libertà. No, un momento, le variazioni, le quattro bandiere. Scusa una cosa, quella canzone di prima, dell'operaio all'alba, una cosa di formale. Mettiamoci d'accordo sulle parole. Da dove viene? È comunista. È un rifacimento. Prima, prima la cantavano. C'è uno, marceremo a plotoni affiancati con neni togliati. Sentiamo anche queste versioni. Dai, cantiamo. E dopo poi hanno detto, ma se noi volete compatti. Per documentazione, sentiamo che cosa. No, mi spiace. Allora, via, anche neni togliati. Io non lascio. Arriva in Spagna e poi ci rendiamo. È un documento storico quella lì. Sì, sì, sì. Appunto. Allora. All'alba se ne parte l'operaio, la crosta de polenta e de formaio. Bavala, bavala, la camorra dei democristiani. Marceremo uniti e compatti con Nenni Togliatti e Mao Zedong. Marceremo uniti e compatti con Nenni Togliatti e Mao Zedong. Ecco, e questa qui era la versione precedente. Sì, sì. Sì. Poi, no, però non sapete che abbiamo cantato sbagliato, perché l'ultimo pezzo è Nenni Togliatti, Mao e Stalin. Mao e Stalin, dicevano. Vediamo le aggiunte alle tre bandiere. Sì, sentiamo, bandiera bianca, rosso, verde, no. Perché è il simbolo delle tre merde, bandiera bianca, rossa e verde, no. Perché è il simbolo delle tre merde, bandiera bianca, rossa e verde, no. E Pietro Nenni lo vogliamo, no. E Pietro Nenni lo vogliamo, no. Perché è il simbolo dell'adimento, e Pietro Nenni lo vogliamo, no. Perché è simbolo del tradimento e Pietro Nenni lo vogliamo, no. Gli vecchietti lo vogliamo, sì. Gli vecchietti lo vogliamo, sì. Perché è simbolo del socialismo, gli vecchietti lo vogliamo, sì. Perché è simbolo del socialismo, gli vecchietti lo vogliamo, sì. Basso lo vogliamo, sì, e l'elio basso lo vogliamo, sì, perché è il simbolo del progresso, e l'elio basso lo vogliamo, sì, perché è il simbolo del progresso, e l'elio basso lo vogliamo, sì. Per diventare sottosegretario Bertoldi. Il sollevante lo vogliamo, no, perché si lascia solo le mutande, il sollevante lo vogliamo, no, perché si lascia solo le mutande, il sollevante lo vogliamo, no. E quella che veniva dopo cos'era? Dai, dai. Per diventare sottosegretario Bertoldi, lui deve rimanere nel partito Bertoldi. Bertoldi, esponente del PSI. Arriba Spagna roja, arriba Spagna roja, arriba Spagna roja repubblicana. socialista y comunista. Arriba España roja, arriba España roja, arriba España roja, republicana y comunista, y comunista. E queste, momento, e queste aggiunte qui alle tre bandiere, chi le ha fatte? Sì, sì. Così le fate voi, le avete fatte insieme. Non è che ci sia molta, molta. Hai mai sentito quella? Aspetta, quando era rosso se trovava, 40 franchi al giorno se ciabava, adesso che se canta giovinezza, se muore dalla fame te sa, Benito, Benito, te me già va pulito, te me cala la paga, te me cresù la vita. Poli, riporto uno. E questa, dove l'hai sentita? No, la canto in Berani, non questa io l'ho sentita nella, nel basso veronese, medio e basso veronese, però mi risulta qua recentemente, però è un po', questo a quanto mi risulta, se non ero, è molto anziano, cioè questa la cantavano appena terminata la guerra, cioè, non è che ci facciamo sto riporto uno dopo andiamo. Allora, questa che avete detto adesso, cos'era? Riporto uno, si chiama riporto. Andiamo a mirare il tuo popolo. Dopo la visita a Pietro. No, facciamo un attimo, prima questa qui da qualunquisti, poi facciamo questa qui. Dopo la visita a Pietro. Sì, ma non comincia ancora. Sì, ma siamo d'accordo di presentarci. Attaccate Poli che non me la ricordo. Dopo ne quale? Riparto uno. Dai, come ti chiami? Io son Fanfani, figlio di Biancaneve dei sette nani, riporto uno. Dimmi come ti chiami, io sono Moro, figlio di Parlamento e del Concistoro, riporto uno. Dimmi come ti chiami, io sono Tabuchi, figlio delle banane di cento trucchi, morto uno. Dimmi come ti chiami, son Michelini, figlio della petace di Mussolini, tacoga. Che taga casa? Poi cosa c'era? Dirà il tuo popolo, bella signora, che oggetto dubbio, oggi t'anora. Avanti il popolo, alla riscossa, bandiera rossa, trionferà. Sempre riporto uno per il palo. Dimmi come ti chiami, mi chiamo Nelly. Sentiamo. No, non me lo ricordo. Ah sì, ti riprendo la religione. Dai. Poi ci andiamo dentro noi se pubblichiamo sta roba, capisci? Dai. Ehi, Paolo VI, dai. Io sogno di essere sul Calvario. E tu come ti chiami, San Paolo VI, figlio del Vaticano e di Gesù Cristo, riporto di Gesù Cristo. Due versioni, una puttana e Gesù Cristo. Sì, anche. Di una puttana e Gesù Cristo, pure dal Vaticano. Di una puttana e Gesù Cristo, di Vaticano e Gesù Cristo, di Vaticano e Gesù Cristo. Sono varie combinazioni. L'abbiamo fatto amico e da lì. E poi altre che fate voi con questo? No, c'era le chiese, in realtà. Abbiamo già i cibi anche. taglio le mani. No, ma la Madonna balla, no? Ma questa questa dovrà essere cosa? Ostiglia. Ostiglia, come dai. Facevo la propaganda al Sartori che era doveva essere eletto per il consiglio comunale. Sartori quel famoso, sì, doveva essere. E l'hai sentita proprio cantata? No, l'ho sentita. Come l'abbiamo sentita? Io l'ho registrata. L'ho registrata veramente. Mara che la cantava. Ah sì, la Mara, sì. La Mara. No, la Mara è una ragazza che era a Sant'Anna e cantava sta canzone. E tu l'hai registrata? Sì, l'ho registrata. Senti, vorresti farne una copia di questa registrazione? No, ma non l'abbiamo mica registrato quello lì. Ah no, l'Italia di Mara. No, non ce l'ha mica registrata quella lì, hai ragione. Lunedì 6. Comunque è molto corta, se ci fosse una ragazza che si prestasse. Andiamo. No, ma la sanno. Ah, bisogna andare. Va bene, grazie. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.